che viver fra voi oggi incomincio. Quest'antro fedel figlio innocente non apporta al mio seno orror funesto, poiché a questo mio cor degli orrori l'errore è più molesto. Piacere, chi mostro fuccia di lascivia, or mi rientro d'orrido chiostro, che sol di penitenza orribe mostro. Ma si t'inganno bello, se del piacer credi fuggire i lacci, che sotto mille foggio abitator selvaggio mi fingerò del tuo bel volto amante, e nel tuo cor con pastorali accenti ardori desterrò d'amor già spenti. Thank you. Thank you. romana di chi niega pietà a chi la brama ed ogni fiera più fiera ancor ed ogni fiera più fiera ancor ed osa vera e ancor fedele niega crudele pietà e amor pietà severa e ancor fedele niega crudele pietà e amor. Oh!